Dopo le schermaglie a distanza è arrivato ieri il confronto tra gli industriali e il governo. Fuori dalle tensioni si legge in controluce una volontà complessiva di ricomporre. Confindustria vuole più produttività, attenzione alla spesa pubblica, controllo del debito e nell'immediato la restituzione di 3 miliardi e mezzo di accise in forza di una sentenza della Corte di Cassazione. Non è l'unico fronte aperto per l'esecutivo che oggi discuterà delle modifiche ai decreti di sicurezza. Insomma, discussione non facile come potete ben immaginare. Governo che oggi vedrà il Presidente del Consiglio presentarsi in Commissione Regeni sulla vendita delle fregate all'Egitto. Il tutto mentre la pandemia è lontana dal dirsi conclusa. Basta vedere quel che succede a Pechino, e tra poco ci andremo, che se non va in lockdown poco ci manca, con 100.000 operatori sanitari schierati. Mentre in Italia tornano a crescere i nuovi casi, se ne sono registrati 330. In un'Italia che prova a tornare alla normalità, e lo fa anche con il calcio. Ieri la finale di Coppa Italia e la vittoria del Napoli ai rigori. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. To do what I want at any old time. I'm free to do what I want at any old time. So love me. Eccoci qua, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6 e wow, quasi 34 minuti ed è giovedì 18 giugno. La task force di questa mattina, e non so se dovremo più e continuare a parlare di task force vista la non proprio grande efficacia che hanno avuto, insomma, comunque la task force di questa mattina è con Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, anche Gloria Guerrera e il nostro Giorgio De Luca, reduce presumibilmente dai caroselli per il Napoli di ieri sera, e i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, quest'ultimo invece deluso. E poi ci siete voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, WhatsApp, tutto quello che volete. Mi fate iniziare stamattina in maniera un po' più leggera, dai. Iniziamo dalla Coppa Italia, però da questa storia dell'inno. Stamattina mi ha strappato una risata il povero Sergio Silvestre, che doveva cantare l'inno e a un certo punto si dimentica le parole. I social si sono scatenati, Sentiamo questo passaggio di Silvestre, va. Dov'è la vittoria del trofeo? Le porca la chioma che scava di Roma. Poverino, poi in questo stadio deserto dove si sentivano tutte le voci dei calciatori, dove c'era una strana scenografia con delle bandierine sventolanti che non si capiva bene, e a me ha ricordato, per gli amanti del genere, c'è uno dei film della Pallottola Spuntata, nella quale lui, il protagonista, Leslie Nielsen, fa finta, deve sventare un attentato, no? E quindi va in questo stadio di football dove deve sventare l'attentato, lega il tenore che dovrebbe cantare l'inno americano, si sostituisce a lui, entra in campo e va così. Scusate. Love me, I'm free to do what I want. scusate, baseball ha ragione, non football americano ma baseball, mi scrive un ascoltatore, vero. Va bene, veniamo alle cose serie. Ieri gli stati generali, l'incontro tra il governo e Confindustria, come si diceva, dopo le tensioni dei giorni scorsi. Come vi dicevo, molti giornali oggi aprono sul tema dello scontro tra gli industriali e l'esecutivo. In realtà poi a guardare un po' dentro si legge in controluce una volontà complessiva di ricomporre. Detto ciò, il Presidente del Consiglio dice: guardate che non siamo un governo, non siamo un esecutivo contro le imprese. Che questo governo abbia un pregiudizio nei confronti della libera iniziativa economica. Allora questo, a nome del governo, voglio precisarlo molto chiaramente. A parte che le misure che noi abbiamo elaborato e inserito nei nostri provvedimenti, per buona parte anche consistente, sono dedicate al sostegno delle imprese. Così Conte. Ieri Bonomi, dopo il suo intervento, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, dopo il suo intervento con il governo e con i ministri, ha rilasciato un'intervista al TG5 nella quale dice: i problemi che abbiamo posto al governo sono questi. Noi abbiamo ovviamente posto tre temi: produttività. Questo paese è 25 anni che ha la produttività stagnante, ferma, bloccata, il 90% dei contratti di lavoro è in scadenza o dovrà essere rinnovato, e questo è uno dei primi temi che noi dobbiamo affrontare. Abbiamo altresì un tema di qualità ed efficienza della spesa pubblica. Negli anni noi abbiamo speso tanto, ma abbiamo speso male, e quindi dobbiamo capire adesso come impiegare al meglio le risorse che arriveranno. E non ultimo, comunque dobbiamo tener conto che noi abbiamo un debito pubblico che quest'anno sfiorerà il 160% del PIL. Questi i tre punti un po' più di lungo termine, cioè da far subito, però un po' di lungo termine. Poi ci sono le richieste di Confindustria sul tema dei pagamenti, la cassa integrazione, le accise, eccetera, eccetera. Sicuramente bisogna dare dei segnali immediati. Prima di tutto bisogna pagare i debiti dello Stato verso le imprese private. Abbiamo circa 50 miliardi bloccati, facciamo un decreto di liquidità quando in realtà basterebbe pagare i propri debiti o perlomeno consentire la compensazione tra crediti e debiti dello Stato. Abbiamo la necessità di onorare i contratti. Le imprese hanno pagato accise sull'energia elettrica per 3,4 miliardi che non erano dovute, vanno restituite. E ultimo, gli abbiamo chiesto i rimborsi IVA. Non è pensabile che noi aspettiamo circa 60 mesi mediamente in Italia per avere un rimborso IVA, quando i nostri competitor all'estero la media è 6 mesi. Caro Alessandro Barbera della Stampa, buongiorno, come stai? Ciao, buongiorno Simone. Buongiorno, eccoci qua, insomma. Allora, abbiamo visto, appunto, come si dice a molti giornali, compreso il vostro, sottolineano l'aspetto della tensione che si registra tra gli industriali e il governo. Dall'altra parte si legge, appunto, mi pare una complessiva volontà di ricomporre sia da una parte che dall'altra, no? Un Presidente del Consiglio che ha le sue difficoltà politiche che abbiamo visto negli ultimi giorni, quelle interne al Movimento 5 Stelle, anche qualche problema con lo stesso Partito Democratico, e dall'altra parte Confindustria, insomma, che fa il suo ruolo, no? Ma sì, diciamo, ormai stava diventando stucchevole lo scontro a prescindere. Bonomi si è presentato con una proposta abbastanza precisa, è andato oltre qualche settimana fa a Conte, facendo una battuta un po' sfortunata dal mio punto di vista. Detto che Confindustria non si doveva limitare a chiedere di ridurre le tasse. Diciamo che se cominciassero a tagliare le tasse sarebbe già qualcosa, visto che ne paghiamo tutti tante e troppe per quello che riceviamo in cambio. Ma ciò detto, diciamo, Bonomi ha provato a andare oltre e ha fatto una proposta precisa, dato, se vuoi, una indicazione al governo. Certo, il governo, se facesse il suo mestiere fino in fondo, non dovrebbe avere più i suggerimenti degli industriali, ma tant'è. Fatto questo, però, è evidente, insomma, tutto evidente che a Bonomi questo governo non piace, perché effettivamente non si è mostrato particolarmente attento alle esigenze delle imprese in una fase della storia in cui siamo di fronte alla recessione peggiore dalla seconda guerra mondiale. Probabilmente però, diciamo, con questo incontro inizia una fase in cui, mettiamola così, si passa dallo scontro in senso stretto, insomma, in cui poi, dopodiché Confindustria fa il suo mestiere, a un tentativo di confronto sui temi, sulle questioni reali. Sì, che poi è la cosa fondamentale, alla fine, parliamoci chiaro, Alessandro, è quello che serve. Appunto, qua poi c'è un retroscena, vedo qua sul Corriere della Sera, di Monica Guerzoni, a pagina 3, che appunto parla esattamente di questo, no? In controluce si legge questa volontà di dialogo. Governo che si prepara, raccontano un po' tutti i giornali, lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, ne aveva parlato il consigliere economico del ministro Gualtieri, e adesso lo fa direttamente il ministro Gualtieri, insomma, di mantenere almeno fino a fine anno le regole, le deroghe al decreto dignità sui contratti a termine, proprio per evitare un disastro occupazionale a partire da settembre, insomma, quando queste deroghe cadranno. E questo è il quadro per il momento dal punto di vista economico. Poi ci torneremo, ovviamente, ve lo dico, care ascoltatrici e cari ascoltatori, in rassegna stampa, perché c'è molto da leggere su questo fronte. Il lato dell'opposizione, Salvini dice meno aperitivi in villa. Però se ci fosse qualche aperitivo in villa in meno e qualche visita a una fabbrica, un'azienda artigiana in più, sicuramente non farebbe male, sicuramente ci sarebbe una percezione. E poi, in questo in Parlamento, ieri interveniva lo stesso Conte, e poi questa cosa un po' strana che tira fuori Salvini, un protezionismo difficile da concepire. Comunque sentiamo. E a proposito di Europa, Presidente, la invito a sospendere l'adesione a qualsiasi trattato di libero scambio con altri paesi europei, perché in un momento di difficoltà come questo non abbiamo bisogno di importare carne agli ormoni o grano col glifosato dall'altra parte del mondo. Difendiamo i nostri prodotti, anche le ciliegie che a qualcuno danno fastidio. Le ciliegie, ritorna sul tema delle ciliegie, ne abbiamo parlato ieri con questa storia di lui che mangia le ciliegie durante la conferenza stampa di Zaia. Alessandro, parliamoci chiaro, se sospendessimo i trattati di libero scambio sarebbe un massacro per noi innanzitutto, molto prima che per gli altri paesi che, oddio, è terribile, l'Italia ci chiude i confini, non è più un mercato di sbocco, no? Mi hai spiazzato, perché stavo per dirti, finalmente ho sentito dire a Salvini una cosa che condivido, poi immediatamente si è passato, ne ha detta una così grossa che purtroppo mi ha smontato completamente. Cioè, dice gli aperitivi in villa, eri abbastanza perfetto, d'accordo, poi è partito con quella cosa del libero scambio e vabbè, basta, che ci dobbiamo dire. Traffico. Guarda, è qui che costruiremo la nuova sede. Adesso? Sì, è il momento di investire. Sei matto. Me l'hai già detto, ma quante volte seguire i nostri sogni ci ha dato ragione? Le opportunità sono di chi le sa cogliere. Scegli la tua nuova Porsche oggi e inizia a pagarla tra un anno. Restart Lease è la risposta di Porsche per superare questo momento e ripartire insieme. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni, consultare i fogli formativi presso i concessionari aderenti e su Porsche.it. Offerta valida fino al 10 agosto 2020, salvo approvazione della finanziaria. Mattino. Non un'ottima giornata per il leader della Lega, non solo perché, come avete sentito, il microfono gli funzionava da schifo, ma anche perché a un certo punto c'è anche questa gaffe, guardate che stupenda, verrà ripresa, immagino, un po' dappertutto. Eccolo, via. I porti aperti di hanno salvato vite. Si sieda, per i porti chiusi condannano a morte migliaia di persone. Non è male, i porti chiusi condannano a morte migliaia di persone. Non una giornata felicissima per Salvini, direi. Alessandro, rapidamente, come, Come lo vedi il governo? Ma non benissimo. A livello di tenuta politica. No, avevo capito la domanda. Diciamo non benissimo, però ha un grande atu. È un governo in questo momento senza alternative, o meglio, il Presidente del Consiglio è un Presidente del Consiglio senza alternative. Si capisce dai racconti che ci sono nei palazzi, per chi frequenta, che il Presidente della Repubblica non è particolarmente avvezza all'idea di tornare al voto o di cambiare questo governo, e quindi non vuole rischiare, perché siamo in una fase economica molto difficile. Si capisce anche la prudenza del Quirinale, ma insomma si può essere, non essere d'accordo, i fatti sono questi. Quindi paradossalmente un governo, diciamo, deboluccio, che però è forte appunto della sua insostituibilità. Questo è il punto. Cosa farvi sentire? Naturalmente, Simone, questo non significa che durerà così a lungo. Riuscire a dire quanto durerà è un po' un esercizio da Nostradamus in questo momento. Però mettiamola così, a settembre ci saranno le elezioni regionali, 6 regioni, e quello sarà un test molto importante per la tenuta del governo. Sì. In realtà, siccome molti dei governatori uscenti verrà riconfermato, il risultato è, diciamo, abbastanza scontato. Però se ad esempio il Movimento 5 Stelle dovesse andare molto male, è probabile questo, che il governo potrebbe subire uno scossone, anche perché non dimentichiamocelo, sì, questo è un Parlamento in cui il Movimento 5 Stelle esprime circa un terzo dei parlamentari. Da quando si votò per il Parlamento che abbiamo, diciamo, che è tuttora in carica, il Movimento 5 Stelle ha perso circa la metà dei suoi consensi. Sì. Quello almeno è, stando, diciamo, ai sondaggi, sì, fatto un dato che in qualche modo prima o poi diventerà piuttosto discriminante, ecco. Sì, sì. Tutto molto dipende dal Presidente della Repubblica e da quanto il PD continuerà ad accettare questo stato delle cose. Sì, sì. Vogliamo, ma non abbiamo tempo di far sentire Rino Gattuso, Carmelo Lauricella, perché insomma adesso abbiamo un altro ospite, voglio andare a Pechino se riusciamo ad arrivarci. No, non riusciamo ad arrivarci. Adesso ci riproviamo. Intanto vi faccio sentire innanzitutto i festeggiamenti ai tifosi del Napoli. Dai, diamo atto. Eccoli qua. Noi siamo letteralmente presi da questo entusiasmo, un Napoli che l'ha meritata. Eccoli. E poi Rino Gattuso che parla del dio del calcio. Io penso che noi, chi fa sto lavoro qua, deve avere rispetto per questo lavoro, perché siamo fortunati, ed è per questo che io tante volte mi arrabbio. Voglio vedere gente che ci mette passione, perché io l'ho fatto così per tantissimi anni, e non ho nessun rancore, nessun rimorso che potevo fare qualcosa in più, ho fatto di più di quello che potevo fare. Io dei miei giocatori voglio questo, voglio senza appartenenza, voglio rispetto, e quando si lavora si deve lavorare con grande serietà. E dopo non è un caso, perché credo molto che c'è un dio del calcio, che quello che quando fai le cose bene, dopo alla fine vai a raccogliere tutto quello che semini. Non è male, il dio del calcio di Gennaro Gattuso. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Cosa ancora? Le elezioni regionali, se ne parlava prima con Alessandro Barbera, il presidente del Veneto Zaia sul tema della data del voto. Oggi ci sarà una commissione per parlare appunto di questa proposta del Ministero di fissare il 14 per tutti l'inizio delle scuole. Bene, la nostra posizione sarà che noi non diamo l'ok finché non fisseranno la data del voto, perché siamo stanchi di farci prendere in giro. E qua, come sapete, è aperto un dibattito che abbiamo lanciato da questi microfoni in tempi non sospetti sul fatto di far votare in altri luoghi, ove possibile, in altri luoghi che non siano le scuole, per non far riaprire le scuole. Il 14, perché a questo punto la data pare che sia quella, e poi una settimana dopo richiudi perché tanto ci sono le elezioni. Dice Zaia, tra l'altro, le scuole le dovevamo riaprire. Noi dovevamo riaprire le scuole. Noi al posto dei centri estivi dovevamo riaprire le scuole. Ma questo tema non siamo mai stati riusciti a portarlo avanti. Cioè, aver fatto anche un mese di scuola non avrebbe creato complicazioni, no? Farci, tutta giugno. Cioè, i ragazzi si sono fatti aprile, maggio, insomma ti fai a casa 3 mesi. Alessandro, questo è un tema enorme. C'è un tema enorme che ha a che fare con la scuola dimenticata e anche con l'infanzia e l'adolescenza dimenticata in questa fase di lockdown. Ci si è pensato pochissimo, eh? No, direi che l'ultima cosa che abbiamo pensato avrebbe dovuto essere la prima, in molti altri paesi è stata la prima, la Francia, la Gran Bretagna, tutti più chi meno, diciamo, chi più o meno... gradualmente le scuole sono riaperte, da noi purtroppo no. Dirò una cosa un po' scomoda, la verità vera, al netto della grande prudenza che ha funzionato, perché in Italia il lockdown non si è preso seriamente, quindi abbiamo avuto un calo dei contagi, tutto quello che vogliamo, la verità è che le scuole non hanno riaperto perché abbiamo un personale scolastico ipersindacalizzato che ha frenato qualunque ipotesi di riapertura, questa è la verità. Questa è la tua idea, e poi anche perché, Alessandro, secondo me nessuno si è voluto prendere la responsabilità. C'è da una parte sicuramente la componente sindacale, dall'altra il fatto che nessuno si è voluto prendere la responsabilità. Un ascoltatore mi sollecita sulla questione Palamara, su tutte le questioni che hanno a che fare con la magistratura, dice non crede che la stampa debba impedire l'oblio su questa storia, su questa vicenda torneremo, perché tra l'altro ci sono delle evoluzioni interessanti sul tutto, eh? Ieri Cantone è stato nominato capo della procura di Perugia, suscitando nervosismo e rabbia in un pezzo della magistratura, ne parleremo in rassegna stampa, e poi ce ne occuperemo anche alle 8:20 con Maria Latella. Grazie Alessandro Barbera della Stampa. Una pausa, GR24, ci ritroviamo subito dopo.